fattore delle sanzioni nelle relazioni internazionali e la loro applicazione è sempre stata un argomento di grande discussione. Diversi studi hanno dimostrato che in realtà le sanzioni funzionano sino a un certo punto, sia quelle storicamente applicate per esempio alla Corea del Nord ma anche all'Iran. In questo momento Trump agisce da solo, prendendo l'iniziativa sullo scacchiere internazionale, ritornando a quella che è una politica classica del Partito Repubblicano americano nei confronti delle amministrazioni che si sono succedute, le varie presidenze della Repubblica Islamica dell'Iran. L'iniziativa è fondata su tre pilastri, il primo dei quali è mettere una pressione finanziaria il più possibile forte, il più possibile accentuata sul regime attraverso appunto queste sanzioni economiche, limitare così il paese nella propria capacità di influenzare gli attori regionali in Medio Oriente, quindi la presenza dell'Iran ad esempio in Siria o nei teatri dello Yemen o ancora in quello del Libano, e allo stesso tempo riuscire a incardinare un discorso con una parte della protesta di piazza che in Iran è sempre presente, parte anche culturalmente del paese, una forza rivoluzionaria che ha creato la Repubblica nel 1978-79. Attraverso questi tre assi Trump cerca di spezzare, diciamo, il supporto a questo accordo internazionale firmato nel 2015 da tutte le potenze del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, con anche il supporto della Germania, e che in assenza di Trump sarebbe continuato probabilmente ancora per tempo. Però lo stesso Trump, diciamo così, ha esentato dall'applicazione delle sanzioni 8 paesi. Questa è una novità o è una cosa, insomma, che abbiamo già visto? No, allora, in realtà queste esenzioni se ne sta parlando, sono state anticipate, ma ancora non c'è nulla di ufficiale. Probabilmente uscirà nelle prossime ore la lista dei paesi che avranno la possibilità di essere esentati. È una contingenza, è dato da una contingenza, ovvero che in questo momento l'interesse verso l'Iran è storicamente verso il petrolio e il gas che il paese produce. L'Iran è il secondo paese per riserva al mondo di gas naturale, il quarto per riserve di petrolio. Chiaramente nel momento in cui le sanzioni nel 2015 sono state tolte dal paese, tutti i mercati interessati ad acquisire petrolio dall'Europa all'Asia si sono, diciamo, tuffati nel loro nero iraniano. Il punto è che in questo momento, data la situazione internazionale in diversi paesi produttori tradizionali di petrolio, come ad esempio il Venezuela, come ad esempio la Libia, la capacità di produrre petrolio in un ammontare maggiore rispetto a quello che è attualmente sul mercato si è ridotta. La produzione ad esempio del Venezuela è calata di diverse decine di punti nel corso soltanto di un anno. In Libia continui attacchi alle stazioni petrolifere nel nord del paese, alle raffinerie, stanno impedendo all'industria del paese di riprendere la produzione. È così che paesi come ad esempio India, Turchia, Corea del Sud, Giappone, che sono totalmente dipendenti dalle riserve di petrolio che vengono commercializzate a livello mondiale, saranno colpite in maniera perentoria da queste sanzioni, sia perché limitano la capacità dell'Iran di esportare, ma anche perché le stesse compagnie di questi paesi non potranno più commerciare con l'Iran, oppure potranno farlo, ma non potendo più avere come partner internazionale banche, istituti di credito, agenzie finanziarie o le stesse compagnie americane che sono coinvolte chiaramente in tutto il mondo. Ti faccio una domanda sulle prospettive allora, appunto, di questa iniziativa di Trump. Anche l'Europa o altri soggetti che citavi, come dire, alla fine si adegueranno o cercheranno un modo per aggirare queste sanzioni? Quello che si va prospettando è una visione differente degli equilibri del Medio Oriente. Trump vuole spezzare il supporto che l'Iran riesce a dare in diversi teatri nel Medio Oriente, lo ripetiamo, Yemen, Siria e Libano i principali, e attraverso queste sanzioni cerca sicuramente nel lungo periodo, non nel breve periodo, di forzare la situazione. Dall'altra parte sia l'Europa ma anche Russia, Cina, India vorrebbero trovare un compromesso. È chiaro che più i mesi passeranno più si capirà verso quale delle due situazioni si andrà a trovare, ovvero la capacità del mercato petrolifero di sostenere l'assenza dell'Iran, oppure se l'incapacità di trovare petrolio a sufficienza per sostituire le esportazioni dell'Iran creerà dei vuoti nel mercato che dovranno essere necessariamente riempiti da una nuova emissione di petrolio proveniente dall'Iran. Il fattore principale appunto è quello da tenere d'occhio per l'osservatore, è quello del prezzo del petrolio, che in questi mesi è andato salendo e ha toccato quota $80 al barile, non lo faceva dal 2014, quindi i livelli più più alti negli ultimi 4 anni, e questo probabilmente sarà il dato incisivo che parlerà da sé rispetto a quello che è la situazione internazionale, appunto la capacità del mercato di supplire all'assenza del petrolio iraniano.